Radio Animati Record. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Controinformazione, torture, promozioni, musica. Radio Azione, frequenze e azioni. Radio Animati Record. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. Radio Azione, controinformazione, letture, promozioni, musica. Radio Azione, frequenze e azioni in diretta. Radio Azione, Radio Azione, Radio Azione. We'll be right back. ogni falsità è una maschera. E per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto. Alexandre Dumas, I Tre Moschettieri, 1844. E invece questa è la diretta d'azione di venerdì 4 aprile, diretta d'azione che comprende solo controinformazione e musica, mentre quella del lunedì, come chi sa che ascolta la reazione di solito, è dedicata anche e soprattutto alla lettura. Ultimamente stiamo leggendo I Sabotatori di Edward Abbey, quindi l'appuntamento per chi vuole, lunedì scorso abbiamo iniziato il libro, e per chi vuole continuare ad ascoltare la lettura, lunedì prossimo ore 17 saremo qui con Marcello, che vi farà anche un riepilogo di quello che è avvenuto nella prima lettura, e poi dopo si continuerà con il proseguo del libro. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radioazione: radioazione@audistici.org, e la mail dove potete mandare scritti, comunicati, mail dove potete soprattutto lamentarvi e non telefonare ad altri per farmi arrivare le cose, dove potete mandare anche materiale che si vuole distribuire gratuitamente attraverso la pagina download sul sito di Radioazione, che è radioazione.org, dove tra l'altro potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione quelle precedenti attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione, dove lì ci trovate tutti i podcast da un anno e mezzo a questa parte, dove potete scaricare il materiale attraverso la pagina download, opuscoli, libri, manifesti, cd, insomma un po' di roba c'è, dove potete ascoltare la radio, la diretta d'azione, attraverso il lettore flash che trovate in sidebar, basta cliccare su play, oppure sull'avviso, sul post che trovate ogni giorno della diretta, cliccate sul banner e vi si apre una pagina a parte dove potete ascoltare radioazione. Per oggi, lo ripeto, è solo controinformazione e musica. Ora ci ascoltiamo prima un brano, loro sono i Dime con il brano Let Your Body Run Dry, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la controinformazione. We'll be right back. Esistono spiriti liberi, audaci, che vorrebbero nascondere e negare di essere cuori infranti, superbi, immedicabili. E talvolta la follia stessa è la maschera per un sapere infelice troppo certo. Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, 1886. Ecco questa frase di Nietzsche che iniziamo la diretta d'azione, la controinformazione per quanto riguarda oggi, perché la prima notizia riguarda proprio uno scritto di radiazione che ha fatto ingazzare qualcuno. Oramai ci siamo abituati, ogni volta che scrivo io qualcuno si incazza e vabbè, non è colpa mia, io dico quello che penso e lo dico a modo mio. Se qualcuno si incazza, a Napoli si dice scendi dal cazzo e fatela a piedi. Allora, la radiazione ha qualche riflessione sull'anonimato abortito. Queste prossime due righe tendono ad inserirsi in un discorso avviato sul sito Contrainfo in lingua inglese su quanto riguarda un dibattito abortito sull'anonimato. In questo testo i compagni che scrivono in anonimato lamentano che su questo argomento non sia stato aperto un dibattito, forse anche per paura che avvenissero divisioni, che ha impedito ad altri compagni che ne avrebbero solo letto i pensieri altrui di stare da una parte o dall'altra. Che si ha paura di esprimersi per non creare divisione è una cosa che anche io ripeto e non da poco. Sul fatto che attraverso un dibattito abortito non si riesce ad indirizzare le persone da una parte o dall'altra, spero sempre nell'io di ogni buon individuo anarchico che non ha bisogno di leggere per riprodurre le stesse tesi o la solita solfa, ma per apportare le sue disposizioni o di farsene senza per forza andarle a scrivere. Certamente, se poi ci si lamenta di aver aperto un dibattito attraverso l'arroganza di testi come Lettera alla Galassia Anarchica o L'Anonimato, beh, devo dire che sono anche contento che non c'è stato seguito e che sia avvenuto un aborto. Di sicuro se ne è discusso tanto tra i compagni su tali testi, raramente è avvenuto attraverso il cartaceo o il web, e questo è un bene. Anzi, secondo me, non avrebbe dovuto esserci nemmeno dibattito faccia a faccia, perché la fonte da cui tenta di partorire è una fonte superba, arrogante, filosofica e perché no, paracula, dal momento che qualcuno sale dall'alto della sua cattedra di insegnante di anarchismo e detta quali siano i metodi giusti o sbagliati. Tutto ciò lo fa sbattendosene altamente il cazzo o le ovaie, così non mi date del sessista, del pericolo che hanno affrontato i compagni che hanno praticato un'azione diretta. L'azione viene firmata o non, con sigle, acronimi o non, solo ed unicamente da chi ha praticato tale azione. Tutto il resto è voglia di aprire la bocca per forza eleggendosi a giudici sulle azioni altrui. Dall'altro lato vi affermo che non mi piace nemmeno quel filo di avanguardismo che trasuda da certi testi di rivendicazione, come allo stesso modo penso che le firme ripetibili, non parlo degli acronimi, han ben poco a che fare con l'informalità. Ma questo è un mio pensiero, è una mia lettura e il dare significato al senso di informalità, che ho visto evolversi negli anni fino a capovolgere i primi documenti e riflessioni dei compagni della Federazione Anarchica Informale in Italia. Ma l'arroganza e la superbia da parte di chi se ne sta seduto in poltrona a dire che i compagni che hanno perseguito l'idea di formare un gruppo, che si rivendicano in ogni occasione, tra l'altro apponendo in ogni comunicato, anche precedente al loro arresto, una firma ripetibile, sia causa di eventuali manovre repressive, beh, è un altro discorso, un bel discorso di merda. Come altrettanto un discorso di merda, arrogante e superbo, è andare a criticare l'azione dei compagni in Grecia che hanno tolto dalla faccia della terra un po' di merda nazifascista di Alba Dorata. In questo caso viene criticata di nuovo la scelta di mettere una firma, Squadre Rivoluzionarie Popolari Combattenti era la firma dei compagni che hanno fatto fuori i due nazifascisti di Alba Dorata, perché impoverisce l'azione salutata da tanti sovversivi in tutto il mondo. Ci sono state delle persone, dei compagni o chiunque loro siano che hanno pensato una sera di uscire di casa per andare sul luogo dove un gruppetto di nazisti si incontravano ed hanno deciso di fare vendetta sulla morte del compagno Pavlos Fissas, avvenuta per mano di un membro dello stesso gruppo. Cosa è accaduto quella sera lo ha deciso chi si è recato sul luogo ed ha armato la sua mano per far fuori i due nazisti. In che modo lo volevano fare lo hanno pensato le stesse persone che hanno praticato quell'azione. Chi parla dopo ha fatto un solo buco, quello sulla poltrona su cui siede e giudica. Stesso discorso per quanto riguarda la critica ad Alfredo e Nicola ed il ferimento ad Adinolfi, rivendicato in aula dai due compagni. Che bisogno c'era di andare a rivendicare con un testo l'azione all'indomani della stessa? Ma dico, saranno cazzi loro? Tutto era evidente agli occhi di tutti. Tutti potevano sapere, capirne il significato del gesto dell'azione. Di fatto resta che sia Alfredo e Nicola quel mattino non prendevano uno scooter e andavano a dire la propria ad Adinolfi nei loro modi, in pochi avrebbero conosciuto il ferito che lavoro facesse. Hanno scelto di fare quell'azione ed hanno deciso se scrivere o meno un testo rivendicativo e apporre una firma. Intanto, più che il foro causato dalla pistola impugnata dai compagni, sembra che si sia allargato quello sulla poltrona di chi parla a sproposito e giudica. Questo è l'anonimato. L'anonimato è anche essere anonimi e non avere le ovai o le palle, così facciamo la cosa uguale, di dire la propria senza apporre una firma ed al limite far finta che il testo arrivi da qualche altra parte del mondo. Ma purtroppo ognuno di noi potrebbe essere il più infame dei magistrati perché riusciamo a capire dal modo, la forma e tutto il resto da chi è stato scritto un testo. Il testo apparso sul sito di Contrainfo, sezione inglese, è privo di firma, è privo di una nota introduttiva. Io da sempre do per scontato che chi pubblica senza aggiungere nulla condivide in toto. Del resto, ben vengano le azioni rivendicate con firma, firma ripetibili, acronime o anche anonime. I buchi si fanno con l'azione diretta, non sulle poltrone di casa propria. Départ de Nord, 51 degrés, 30 minutes, 30 secondes, ouest, 0 degrés, 7 minutes, 31 secondes. Le 3 octobre, passage par Nord, 48 degrés, 51 minutes, 12 secondes, est, 2 degrés, 20 minutes, 55 secondes. Le 4 octobre, traverse le tunnel Nord, 45 degrés, 12 minutes, 0 secondes, est, 6 degrés, 40 minutes, 0 secondes. Le 5, arrivé à Nord, 40 degrés, 37 minutes, 39 secondes, est, 17 degrés, 56 minutes, 12 secondes. Le 6, embarquement sur le Mongolia, destination de Nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, et 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le 13, passage devant la ceinture des murailles sud, 20 degrés, 13 minutes, 8 secondes, et 57 degrés, 29 minutes, 45 secondes. Le lendemain, en vue de Nord, 12 degrés, 35 minutes, 0 secondes, et 43 degrés, 25 minutes, 0 secondes. Le 14, escale à Nord, 12 degrés, 47 minutes, 12 secondes, et 44 degrés, 58 minutes, 44 secondes. Dans l'après-midi, cap au nord-ouest de la rade Nord, 12 degrés, 46 minutes, 46 secondes, est, 45 degrés, 2 minutes, 12 secondes. Le 14 au soir, arrivé à Nord, 12 degrés, 46 minutes, 46 secondes, est, 45 degrés, 2 minutes, 12 secondes. Le 15, départ en direction de Nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, est, 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le 19, navigation en vue des îles Nord, 18 degrés, 53 minutes, 18 secondes, est, 72 degrés, 49 minutes, 17 secondes. Le 20 octobre, départ de Nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, est, 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le lendemain, traverse le pays Nord, 24 degrés, 50 minutes, 38 secondes, est, 86 degrés, 14 minutes, 30 secondes. Le 21, poursuite vers la capitale Nord, 26 degrés, 1 minute, 37 secondes, est, 81 degrés, 59 minutes, 23 secondes. Le matin, en vue du Royaume Nord, 18 degrés, 10 minutes, 0 secondes, est, 77 degrés, 55 minutes, 0 secondes. À midi et demi, arrêt à la station Nord, 19 degrés, 18 minutes, 16 secondes, est, 84 degrés, 47 minutes, 34 secondes. Après le déjeuner, départ pour Nord, 24 degrés, 57 minutes, 36 secondes, est, 87 degrés, 50 minutes, 25 secondes. Le soir arrivé sur le territoire Nord, 24 degrés, 50 minutes, 38 secondes, est, 86 degrés, 14 minutes, 30 secondes, et de Nord, 14 degrés, 40 minutes, 45 secondes, est, 78 degrés, 21 minutes, 40 secondes. à 6h du matin, Escalade-Nord, 25 degrés, 27 minutes, 0 secondes, S, 80 degrés, 51 minutes, 0 secondes. Puis route vers Nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, S, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Le lendemain, départ de Nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, S, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Traverse le pays de Nord, 25 degrés, 11 minutes, 0 secondes, S, 85 degrés, 31 minutes, 0 secondes. Le soir, en Uniforme, Nord, 25 degrés, 8 minutes, 0 secondes, S, 82 degrés, 54 minutes, 0 secondes. Le jour d'après, départ de la ville Nord, 25 degrés, 36 minutes, 0 secondes, S, 85 degrés, 7 minutes, 0 secondes. À 20 000 miles au sud-est de Nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, S, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Passage à Nord, 26 degrés, 42 minutes, 0 secondes. S, 88 degrés, 26 minutes, 0 secondes. Près de Nord, 24 degrés, 11 minutes, 14 secondes. S, 88 degrés, 16 minutes, 45 secondes. Poursuite de voyage à Nord, 23 degrés, 15 minutes, 0 secondes. S, 87 degrés, 45 minutes, 0 secondes. Nord, 22 degrés, 52 minutes, 9 secondes. S, 88 degrés, 22 minutes, 38 secondes. Et de Nord, 24 degrés, 53 minutes, 0 secondes. S, 88 degrés, 9 minutes, 0 secondes. Le 26 octobre à 7h du matin, arrivé à Nord, 22 degrés, 32 minutes, 0 secondes. S, 88 degrés, 25 minutes, 0 secondes. Le 27 octobre, navigation sur les brasses de Nord, 22 degrés, 34 minutes, 11 secondes. S, 88 degrés, 22 minutes, 11 secondes. Passage au large de Nord, 12 degrés, 30 minutes, 0 secondes. S, 88 degrés, 45 minutes, 0 secondes. En vue de montagne Nord, 13 degrés, 9 minutes, 0 secondes. S, 93 degrés, 1 minute, 0 secondes. On atteint le défaut Nord, 20 degrés, 24 minutes, 0 secondes. S, 72 degrés, 18 minutes, 0 secondes. Erano Ann James Chaton e Andy Moore con il brano Dove sta d'est. Ora ritorniamo alla controinformazione dopo il testo che abbiamo letto in apertura per quanto riguarda l'anonimato. Vabbè, non ho detto nulla, non penso che ci avevo da aggiungere nulla rispetto a quanto ho scritto sul testo. Ho solo continuato un dibattito dove c'è stata una lamentela da parte dei compagni su Contrainfo. Non lo so se l'hanno scritto loro o l'ha scritto qualcun altro. Di fatto sa che quel testo è privo di firma, è privo di nota introduttiva, è privo di un ricevo e di fondo, quindi si dà pure quasi per scontato che il testo arriva di pugno loro. E quindi si lamentavano di questo dibattito sull'anonimato, sulle sigle ripetibili, che era stato abortito. Io gli ho dato una mano e praticamente ho dato un mio contributo. Poi se qualcuno si incazza. Andiamo avanti con la controinformazione, ce ne sarà ancora altro perché i compagni cileni hanno risposto alla chiamata, alla proposta fatta da redazione la settimana scorsa su un altro argomento che riguarda la controinformazione, ma questo lo leggiamo dopo. Ora andiamo in Italia, dove a Bologna sono stati assolti tutti i compagni accusati per l'inchiesta Autolove. Ne leggiamo il documento scritto dagli stessi compagni, che ha per titolo "Ci siamo ripresi una parte del mal tolto". Nel pomeriggio di lunedì 31 marzo è stata emessa dal Tribunale di Bologna la sentenza di assoluzione per 21 compagni e compagne sotto processo dal 2011 per associazione a delinquere con finalità eversiva. Siamo stati dunque tutti assolti. Nell'aprile del 2011, all'interno dell'operazione repressiva denominata Outlaw, in via San Vitale 80, lo spazio di documentazione fuori luogo era stato messo sotto sequestro e chiuso. 5 compagni arrestati e 7 allontanati dalla città con divieto di dimora. A ciò sono seguiti 3 anni di accanimento sbirresco con l'evidente dichiarato tentativo di toglierci ogni spazio di agibilità in questa città. Oggi, dopo la sentenza, attesa in piazza da un grosso presidio, ci siamo ripresi uno spazio. strappato anch'esso ai compagni 15 anni fa. Si tratta della sede di un circolo anarchico intitolato a Carlo Cafiero, che ospitava la libreria Circolante. A metà degli anni 60 fu preso in affitto da Libero Fantazzini, che per chi non lo conosce è il padre di Horst, con alcuni compagni anarchici. Il comune di Bologna lo concesse a un costo simbolico per sostituire la sede storica di Porta Galliera, chiusa durante il ventennio fascista. Questo posto, nel corso degli anni, meglio conosciuto come Laboratorio Anarchico Paglietta, nel giugno 1999 fu messo sotto sequestro e poi chiuso con mattoni e cemento a seguito di un'inchiesta che aveva condotto in carcere una compagna e un compagno. Per più di 30 anni era stato utilizzato da gruppi e individualità anarchiche, riempito di attività, assemblee, incontri e condivisioni di vita. Come spesso accade, il procedimento penale non ebbe alcun seguito, ma il locale restò murato e inaccessibile, chiudendo con sé un pezzo di storia della città. Nella giornata della sentenza ci siamo ripresi uno spazio sottratto al piacere e all'esigenza di utilizzarlo, uno spazio per confrontarci, discutere e trovare il modo di opporci con efficacia ad un sistema che opprime, affama, devasta e avvelisce la vita. Uno spazio per continuare a lottare per un mondo del tutt'altro da questo. Bologna, 31 marzo 2013, anarchiche e anarchici felicemente delinquenti. E questo era il documento scritto dagli stessi compagni accusati per l'inchiesta Outlaw. Siamo contenti che almeno un altro spazio sia stato tolto fuori luogo, almeno un altro spazio, lo storico Paglietta che io ricordo, sia stato ripreso finalmente, e speriamo questa volta facciamo corna, facciamo gli scongiuri, facciamo quello che vogliamo, speriamo che non venga ritoccato. Ora ci ascoltiamo un brano di Dive con il brano Final Report, nemmeno a farla apposta, e poi dopo si torna qui e si torna con la controinformazione. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. Body temperature was 19 degrees below normal. He was clinically dead. reacted dead, paired all of our tests and ended dead, yet no responses from a neurologic standpoint. Questi erano Dive con il brano Final Report. Ora si passa ad un'altra notizia molto simpatica, avvenuta, che ci arriva dal Cile, in particolar modo da Vitacura, dove c'è stato un tentato attacco esplosivo ad una chiesa. Riportiamo sul sito di redazione il comunicato trovato nella chiesa della Immaculata Concepción, nel quartiere benestante di Vitacura, Santiago del Cile. Secondo il più grande bastardo Marcelo Le Pen, la bomba consisteva in polvere nera compressa in un tubo per il gas, che si doveva attivare con un timer che non ha funzionato. Per questo motivo il gruppo delle operazioni speciali della polizia ha fatto brillare l'ordigno in modo che non ci fossero danni. La bomba è stata trovata la mattina di sabato 29 marzo dagli operai che lavorano nel restauro della chiesa, i quali hanno chiamato gli sbirri del 36esimo commissariato. Ricordiamo che questa chiesa è stata attaccata il 29 aprile 2010 dal gruppo vengativo Maurizio Morales, causando danni al luogo. Tra l'altro, oggi durante la messa della domenica c'è stato un allarme bomba che ha costretto a sospendere il rito. E ora leggiamo il volantino che è stato trovato nella chiesa e diffuso dalla stampa. Il volantino ha per titolo: sappiamo che non lottiamo per vincere, ma per vederli cadere. Quando il nostro obiettivo è diretto alla loro distruzione, perdiamo la paura. La nostra lotta è per la distruzione di tutta questa spazzatura della società esistente, creata da e per la borghesia. Non riposeremo, né li lasceremo riposare. Siamo sempre in attacco costante e quotidiano, vigili, con odio, con rabbia, decisi e convinti del non ritorno. Che ci sarà una società più giusta, che le prigioni non smetteranno di esistere, che nessun dominio sarà migliore di quello precedente, non smettiamo di essere loro nemici. Ecco perché siamo convinti che il modo più concreto di condurre le nostre vite o questa lotta è la propaganda col fatto, con l'attacco, con l'azione diretta. Questa volta abbiamo deciso che il nostro obiettivo sarebbe stato il più responsabile dell'attuale sinistra miseria di questa società. Con la dominazione e l'alienazione del clero, la religione, la chiesa responsabili di molti massacri, dell'idiozia umana, dell'espropriazione di terre, credendosi padroni di tutto. Cadranno, nei nostri occhi questa sera li vedremo esplodere con gioia e allegria. Che sappiano che non sono blindati, che non sono immuni a qualsiasi cosa, sono vulnerabili come qualsiasi stazione di polizia, che vogliamo solo vedere bruciare. Da un lato accompagniamo Angry, che sarebbe Sebastian, Mauri, Mattias, Claudia, e dall'altro lato camminiamo con i compagni e le compagne sequestrati: Sol, Monica e Pancito, Juan, Freddy, Marcello, Carlos, Hans, Victor, Alpaca e Hermes, Alberto Olivares, perché li vediamo con noi, sono presenti in ogni attacco, mai sconfitti e mai silenziosi. Che questa e molte esplosioni brillino sui loro volti, padroni del mondo. Con l'amore e la resistenza della famiglia Vergara Toledo, Lo Sangre Brigade. E questo era il testo trovato nella chiesa. Purtroppo loro dicono: li vedremo esplodere con gioia ed allegria. Purtroppo l'ha fatto esplodere la polizia l'ordigno che era stato messo nella chiesa della Immaculata Concepción a Vitacura. Vabbè, però comunque il gesto c'è, vanno apprezzati. Un'altra rivendicazione conferma, guarda caso. Mi sa che pochi non sono d'accordo su questa firma. Leggiamo molte rivendicazioni sulla radiazione, ne vengono pubblicate altrettante sul sito, e ognuna viene apposta una firma. Sarà sarà un segnale, sarà qualcosa, però fatto sta che chi fa l'azione preferisce mettere la firma, chi se ne sta in poltrona preferisce che le azioni non vengano firmate. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Armageddon Dindos, La Passionata. Questi erano Armageddon Didos, La Passionata. Vi sono stupidaggini ben mascherate, appare di sciocchi molto ben vestiti. Nicolas de Chamfort, massimi pensieri 1795. Allora, ora con questa breve nota introduttiva leggiamo il testo che hanno scritto i compagni del blog Instinto Servache, che continua il discorso aperto da redazione nella proposta alla controinformazione anarchica, facendoci conoscere anche le loro posizioni. Allora, il testo dei compagni cileni. Nota di Instinto Selvaghi. In questo articolo i compagni di Radioazione aprono una discussione in merito alla controinformazione web con le loro posizioni necessarie su vari aspetti quotidiani nello svolgimento di questo tipo di progetto antiautoritario, chiaramente anarchico, su quale noi non possiamo restare in silenzio e quindi vogliamo dire anche la nostra posizione su questo argomento. Istinto Selvaghe è un sito anarchico dove collaborano alcune affinità nichiliste anarchiche e crediamo che in questo momento sia necessario chiarire principalmente due punti. 1.1. Fonti di informazione. Riteniamo necessario citare dove sono state trovate le informazioni quando andiamo a pubblicare temi come rivendicazioni, gruppi, morte di compagni o di compagne, ma che questo diventa una regola unica al momento di pubblicare qualcosa, non siamo d'accordo per il semplice fatto che ogni progetto lo porta avanti un compagno o una compagna in forma anonima e responsabile. E se esiste un errore nella traduzione o informazione, si spera che le persone che curano il web e hanno informazioni corrette inviano una mail per sostenere il progetto controinformativo, per non cadere in problemi di informazioni errate e che nemmeno si esiga con la superbia i diritti d'autore o copyright. Quali informazioni pubblicare? Noi ci definiamo anarchici e non siamo estranei alle situazioni che si verificano nella lotta antiautoritaria in ogni paese, come nel caso del Messico e il Cile, i più critici per citarne alcuni. Le responsabilità delle informazioni pubblicate, come nel caso della compagna Tamara Solfarias Vergara, che finora non si è pronunciata o rivendicato l'azione di cui è accusata, ma siccome non ci sono maggiori informazioni sulla questione, in questo momento si dà spazio a informazioni di diverse individualità che le attribuiscono il fatto. Un esempio di questo sono i compagni che le hanno giudicato l'azione con un video chiamato complicità. O un altro caso in cui un compagno o una compagna ha fatto una critica alla compagna Sol per l'azione fatta per il fratello Sebastian Oveslugi Angri e criticando i compagni che hanno effettuato il tentativo di esproprio dalla comodità di una sedia di fronte a un computer senza conoscere gli obiettivi di ciascuna delle azioni. Due casi che hanno generato scazzi in questa regione. Pubblicare con ansia per far conoscere la notizia prima e senza aver letto cosa si sta pubblicando è una cosa che causa un rumore assordante nelle nostre teste. La solidarietà con i nostri fratelli e le nostre sorelle è necessaria ogni giorno, indipendentemente dal fatto che siano colpevoli o meno dell'azione, dato che come anarchici le regole morali o legislative non limitano il nostro appoggio ad ogni combattente anarchico, nichilista e antiautoritario. Ora bene, tornando alle informazioni, diciamo che noi non pubblichiamo notizie di marxisti, leninisti o altre tendenze postmoderne che nascondono il carattere autoritario del suo discorso e di lotta. Non significa non riconoscere la loro lotta o abbandonarli nelle prigioni, e se a volte pubblichiamo loro notizie è per dire la nostra posizione contro le prigioni. Instinto Selvaghe, 30 marzo 2014. E questo era il testo dei compagni cileni di questo blog con cui ci si scambia molto spesso materiale e che fortunatamente, li ringrazio anche a voce, hanno contribuito anche loro a chiarire alcuni punti fondamentali che avevo scritto anche io nella proposta alla controinformazione anarchica che avevo inviato via mail a molti siti e molti blog. Nessuno si è degnato di pubblicarlo, chissà perché. Gli unici per il momento sono i compagni di Instinto Selvaghe, che non solo hanno pubblicato ma anche hanno detto la loro. hanno detto su quello di radiazione, erano stati citati due punti, e gli stessi due punti in cui vanno ad aggiungere qualcosa ai compagni di Stinto Selvaghe, tipo le fonti di informazione, che molto spesso vengono richieste attraverso una mail, a volte ti capita. Allora, spieghiamolo bene per chi non ha un blog, chi non ha un sito. Allora, molto spesso si va, per conoscere le notizie da altri paesi, si ricorre a guardare, a leggere a altri siti, altri blog di compagni che si trovano a 100, 200, 300, a 1000 chilometri da noi. Si prendono questi testi e si traducono. A volte si riescono a fare, si arriva a fare anche a 3-4 traduzioni alla volta, e a volte nel delirio, cioè, totale della traduzione, di andando a tradurre 4-5 pagine, ci si dimentica di apporre una firma, oppure si fa qualche sbaglio in traducendo. Quindi, però, in questo caso che accade? Accade al primo errore, alla prima dimenticanza di mettere una fonte, arriva subito la mail. Arriva la mail del sito da cui hai preso la notizia. Arriva la mail, in particolar modo sono pochi i siti, fortunatamente, che fanno questa cosa. Non dico i nomi, non mi va di farli. Anche perché ho scritto nella proposta che la prossima volta che arriva una mail del genere sbatterò la mail sul sito di radiazione, così tutti potranno capire chi è l'autore della mail e cosa pretende. Un attimo solo, mando un attimo il jingle avanti. Mi stanno avvisando di una cosa. E allora torniamo qua. Forse era caduta la linea, era caduta la connessione per un attimo, non lo so cosa è successo, c'è stata un'interruzione sulla radio. Ripeto, stavamo leggendo, abbiamo letto l'articolo dei compagni cileno di Stinto Selvaghe, che trovate anche su Radiazione. Abbiamo parlato delle fonti di informazioni, queste mail che reclamano la fonte, che io chiamo diritto d'autore o copyright, quando il diritto d'autore e copyright non esiste. Perché gli stessi articoli che pubblichiamo ognuno di noi sui blog, sui siti, anche se non li andiamo a prendere da altre parti, ci arrivano via mail. Quindi noi non siamo i redattori. Quindi noi non siamo gli autori, e quindi andare a chiedere il diritto d'autore o copyright, come lo chiamo io, su articoli di controinformazione che molto spesso parlano di compagni arrestati, lettere di compagni in galera, compagni morti, oppure di compagni che vanno incontro a qualsiasi tipo di pericolo praticando l'azione diretta, andare a chiedere la fonte di apporre la fonte sotto l'articolo a me sembra non solo un'esagerazione ma una schifezza. Poi i compagni cileni affrontano anche il secondo punto, quello sulle informazioni tipo da pubblicare. Io avevo detto non pubblicherò mai quelle di stampo comunista, in particolar modo quelle marxiste, leniniste, staliniste, e mi sa che anche i compagni cileni su questo hanno detto la loro. In più hanno aggiunto sulla storia di Tamara Sol Farias Vergara, la compagna che non ha rivendicato ancora oggi l'azione per cui è accusata, e che tutti gli aggiudicano, gliela aggiudicano più i compagni che la magistratura. La magistratura gliel'ha dato come accusa, però i compagni ci stanno calando un po' troppo la mano. Allora, finché la compagna non parla, finché la compagna non dirà qualcosa in merito a questa cosa, sarebbe bene starsene zitti, e dare solo solidarietà, scrivere qualche parola di solidarietà senza andare a dire il gesto della compagna Tamara Solfarias Vergara, perché per ora quel gesto c'è stato ma non si sa da parte di chi. E questo era per quanto riguarda questo continuo del discorso aperto su radiazione, continuato dai compagni di Sinto Selvaghe. Si spera che altri compagni di siti, blog, ma anche materiale cartaceo, perché molto spesso anche il materiale cartaceo è costretto a scrivere la fonte da dove viene preso. È una brutta abitudine, quindi spero che questo discorso vada avanti e venga dato un apporto con altri testi da parte di altri compagni che si curano della controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Limeworks con il brano Fuck the Label, nemmeno fa la posta, e poi dopo si ritorna qui con la controinformazione. questi erano Lineworks con il brano Fuck the Labels. Quindi vabbè, chiudiamo con i due scritti. Uno, il primo con cui abbiamo iniziato sull'anonimato, è quello con cui si è continuato il discorso fatto da sottoscritto la settimana scorsa con il testo dei compagni cileni di Stinto Sevaghe, e si passa alla controinformazione. Anche quella è controinformazione, ma sono riflessioni, e io spero che ben presto ne arrivano anche da altri siti e da altri blog, a meno per capire anche un po' i compagni, come i compagni che portano avanti siti e blog un attimo come la pensano. Cioè, fateci sapere le vostre riflessioni, senza limitarci a pubblicare testi di altri. Allora, la prossima notizia di controinformazione, si va in Messico, dove ci sono degli aggiornamenti su Carlos Amelie e Fallon. Sono passate alcune settimane dall'ultimo aggiornamento sul caso degli anarchici arrestati il 5 gennaio. Questi gli aggiornamenti. Dato che il procuratore generale della Repubblica non riusciva a trovare prove sufficienti per sostenere l'accusa di terrorismo e delinquenza organizzata contro i tre compagni, sono stati assegnati al procuratore generale della Città del Messico con l'accusa di distruzione della proprietà e di attacco alla pace pubblica. E questo l'avevamo già detto, mi sa, la settimana scorsa, però ci sono ulteriori aggiornamenti. Il processo è adesso in fase della presentazione delle prove, e la prima udienza si terrà il 2 o il 3 aprile, quindi si è tenuta tra ieri e ieri l'altro. Amelie e Fallon sono stati portati nella prigione femminile di Santa Marta, Carlos invece al carcere Oriente. Amelie e Fallon si trovano tra gli altri prigionieri, mentre Carlos continua a trovarsi nella sezione osservazione e classificazione. Vogliamo dire qualcosa in più sulla situazione di Carlos, spiegando meglio le condizioni in cui vivono migliaia di detenuti nelle carceri della Città di Messico. In questi centri di detenzione esiste un'enorme rete di corruzione e di collaborazione tra le autorità e certi prigionieri, che riproducono la logica del carcere assumendo il ruolo dei carcerieri sul resto dei carcerati. Questa rete di corruzione e collaborazione non serve solo a rafforzare il ruolo disciplinario del carcere, ma rappresenta anche un grande giro d'affari, perché la maggioranza dei detenuti sono forzati a pagare per tutto: visite, chiamate, eccetera. In cambio non saranno picchiati dagli altri detenuti, che godono della protezione delle autorità e che ricevono in cambio una parte del denaro. Questi detenuti mantengono il controllo praticamente su tutto il carcere. Questo giorno, qualche giorno fa, abbiamo sentito che Carlos ha avuto dei problemi con un detenuto e che c'è stata una rissa tra di loro, che ha portato entrambi di loro ad essere prima picchiati dalle guardie e poi ad essere rinchiusi nell'isolamento per 9 ore. Dopo essere stati rilasciati dall'isolamento, Carlos è stato portato alla classificazione, dove gli è stato chiesto di pagare per evitare il compito di pulizia conosciuto come la faina. Il nostro compagno si è rifiutato di pagare. La faina consiste nella pulizia di una determinata zona, ma inquadrata nei pesanti esercizi. Durante il primo giorno della faina, Carlos è stato nuovamente picchiato dai prigionieri, che hanno cercato di farlo cedere per accettare di pagare. Oggi sappiamo che il nostro compagno è malato, come risultato dell'umidità della cella di isolamento, e che soffre dei dolori alla schiena causati dal pestaggio. Però lui rimane forte e fermo nelle sue convinzioni. Amelie e Fallon non sono passati attraverso simili situazioni. Chiamiamo ad esprimere la nostra solidarietà con i 5 detenuti, continueremo ad aggiornare sulla loro situazione. Libertà per Carlos, Amelie e Fallon, solidarietà con Mario Gonzalez, un saluto al nostro compagno Tripa, non fermati mai, Cruz Negra Anarchista, Messico. E questo era il testo tradotto dalla compagna che cura la sezione di radiazione in lingua serbo-croata, che ci aggiorna sulla situazione dei tre compagni arrestati a gennaio in Messico. In più, oltre alle cose che erano già state dette la settimana scorsa, ci fanno sapere di questo pestaggio che ha subito Carlos in seguito alle minacce di pagamento. Speriamo che nel carcere la io spero che Carlos sia l'unico, però se ci fossero altri compagni qualcosa cambierebbe, ma purtroppo e fortunatamente Carlos è da solo e speriamo che riesca a risolvere questi problemi con questa Napoli, si chiama Mazzamma, cioè lo schifo di gente, di detenuti che sono il peggior, la peggior razza che può esistere sulla faccia della terra, quando i detenuti si trasformano in carcerieri di altri carcerati. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, il brano di Freakas, il brano è Political Crime, e poi dopo si ritorna qui con altra controinformazione. Venerdì è come un messaggio che mi è appena arrivato, alla stessa ora e per la terza volta consecutiva si blocca tutto e devo riavviare computer, radio, client per connetterci al server, tutto alla solita ora. Non lo so, toccherà fare gli scongiuri anche in questo caso, toccherà mandare qualche maledizione a qualcuno, non lo so che succede, ma fatto sta che arrivati nell'orario dalle 18:10 alle 18:20 capita sempre lo stesso problema. Allora ho preferito tagliare qui il brano per andare avanti con la diretta e con la controinformazione. Ora sono un po' incasinato, perché sto riaprendo tutto, quindi sto andando molto a rilento anche io. Allora, passiamo alla controinformazione, passiamo alla lettera scritta da compagno Adriano Antonacci dalla S2 di Ferrara. Compagno Adriano, il compagno che è stato arrestato insieme a Gianluca Iacovacci il 19 settembre scorso ai Castelli Romani, una zona vicino Roma, praticamente la periferia, non so se è proprio periferia, comunque è là vicino, ci sono stato, si mangiano le coppiette, si mangia un po' di ciccia, che ahimè per i vegetariani non è una bella zona. No, fanno pure la mozzarella, però potete andarci, non faccio pubblicità, insomma. Allora, dicevo, la lettera, a parte le stronzate, passiamo alla lettera di Adriano, che prendiamo da un altro blog a cui è arrivata dalla cassa di solidarietà Aracnide. Allora, la violenza genera violenza, indipendentemente da quando sia giusto o sbagliato, da quando astruso sia il confine tra gli opposti e da come questi possano convergere. La parola e il concetto stesso di violenza da parte di chi ne detiene il monopolio assume profonde mistificazioni. Il dissenso in ogni sua espressione viene sproporzionalmente represso, non che stupisca, vagli a spiegare che è primavera. È tristemente noto il modus operandi della sbirraglia politica, nell'artistica architettura di fantomatici castelli e l'accusa di appartenere a fantasiose associazioni e quali le armi dell'apparato giudiziario dello Stato capitale, servile, funzionale a miserabile potere, fautore e praticante della logica dominante. Tra il cemento e l'acciaio che mi imprigionano e la servitù carceraria ottemperante in tale sbirrisca funzione, usciere controllore, scrivo queste poche righe come un personale sfogo e rompe un silenzio soffocante. Saluto e ringrazio di cuore gli amici e le amiche di sempre, tutti i compagni, le compagne e le realtà solidali e vicine. Esprimo quindi la mia solidarietà a tutti i ribelli, a tutti gli oppressi resistenti, dentro e fuori le galere, e con fraterno affetto abbraccio forte Gianluca, compagno caro. Considero l'anarchismo prima di tutto un sentimento generatore di sentimenti contrastanti. Lo si può enfatizzare, sminuire, distorcere, teorizzare. Un sentimento, in quanto tale, lo si vive. Ma non vi è nulla di sentimentale e non vi sono astrattismi alcuni nell'insieme di strutture e pratiche attraverso cui avviene il controllo, la gestione, la sottomissione e lo sfruttamento della vita. Non sono certo astrattismi, saccheggio e sistematica devastazione ambientale. Tutte le istituzioni, siano esse politico-amministrative, economico-finanziarie o socio-culturali, sono indirettamente o indirettamente responsabili della prosecuzione di questo stato di cose, attraverso la moltitudine di mezzi coercitivi nell'imposizione e sopraffazione di volontà e quindi nell'esercizio di potere legittimato dallo Stato di diritto. La moderna civiltà imperialista si espande mediante l'illusione e la corruzione, il ricatto, la militarizzazione dei territori o dichiarando esplicitamente guerra. Vomita cemento e tossicità, inghiotte la natura, omologa e annienta popoli e culture, opprime con la forza ogni resistenza. D'altra parte, sono millenni che la tirannia civile caratterizza l'umanità in quanto specie evoluta schiavizzatrice. Nel calderone globale, il mercificatore, le politiche liberali e le logiche del commercio dettano legge. Gli stessi stati, facendo i doverosi distinguo, sottostanno ossequiosi ad organismi sovranazionali, trattati internazionali o al dominio finanziario strangolatore. Le corporazioni e aziende multinazionali dei diversi settori detengono indefinibile potere. In nome del profitto e del progresso, con maschere da benefattori e la complicità dei governi saccheggiano, devastano e uccidono senza scrupolo alcuno. Da tempo, oramai, gli sfruttatori e gli inquinatori di sempre, nel solo intento di perpetuare il proprio status, il proprio operato e quindi i loro profitti, blaterano di sostenibilità, si riciclano come amici dell'ambiente e, avendo particolarmente a cuore la causa ecologista, ne diventano sostenitori e promotori. L'energia e l'economia diventano etiche e si colorano di verde. L'ipocrisia diviene insostenibile. I governanti hanno affinato i metodi e affilato le lame. Analizzano insulsi valori, parlano di crescita, sviluppo e mediante tecnicismi assumono fattezze sempre più totalitarie, trovando placido consenso. L'umana fauna civilizzata, ben addomesticata e drogata di informazione e ammassata nelle città formicaio, è composta da individui spersonalizzati, psicotici, consumatori tendenti dell'auto-addomesticazione, degli automi full optional che sfoggiano insoddisfatti smart accessori e ossessionati da tutto, in primis da loro stessi e ostili nei confronti del diverso, trascorrono il tempo libero solitari in mondi virtuali, insieme a tanti amici. Gli individui del gregge, che siano onesti lavoratori o della disparata ricerca di un'occupazione e retribuzione, vivono sulla propria pelle la menzogna di un benessere illusoria, ora vacillante ma prigionieri delle loro stesse menti, restano inermi e indifferenti. In altri casi si dà sfogo ai tristi teatrini dell'indignazione cittadina, con cani pastori che indirizzano al pascolo il flebile lamentoso belato. Quando invece vi è una reale presa di coscienza e la rabbia diventa rivolta, cade nell'immediato la maschera della democrazia che sempre rivela il vero volto, poliziesco, militare e sanguinario. Opportunità per testare nuove armi e apparecchiature, come anche nel rocambolesco evolversi della giurisprudenza e riempire quindi le patrie galere. Da quando gli ingranaggi dell'industria iniziarono a girare, la complessità degli eventi susseguiti ha determinato precisi assetti di potere e prodotto epocali cambiamenti. Il saccheggio di vita è iniziato su larga scala. Oggi il cittadino ben pensante, incosciente, povero di spirito, è illuminato da una nuova dipendenza ideologica, venerabile come una divinità, nuovo Dio Salvatore, la ziggurat tecnologica che con la promessa di un comodo paradisiaco avvenire avanza mostruosamente e con spaventose accelerazioni, artificializzando l'ambiente, automatizzando la vita e con l'applicazione delle tecnoscienze sterilizzandola anche, eliminando o modificando gli elementi che naturalmente la generano. E questa è la prima parte della lettera di Adriano, bella lunghetta, mi sta seccando la gola, quindi ho bisogno un attimo di mandare un brano e poi dopo tornare qui e leggere il continuo della lettera del compagno. Ci ascoltiamo un brano dei Psychedelic Force, Mr. Jones, e poi dopo qui con il continuo della lettera di Adriano Antonacci. Questi erano Psychedelic Force con il brano Mr. Jones per spezzettare la lettera di Adriano. Continuiamo con la lettera. La realtà. nucleare incombente, la compromissione anche irreversibile degli ecosistemi e delle capacità rigenerative di questi, il drastico impoverimento della biodiversità, la manipolazione della natura e quindi della stessa vita, segnano come prossimo un punto di non ritorno. I consumi e gli stili di vita indotti, il controllo delle risorse energetiche, alimentari, idriche e la tecnologia applicata come forma di controllo agli individui, al tessuto sociale nonché all'avanguardia militare, determinano e presagiscono l'integrità di un dominio totale e assoluto. Nell'oscuro pantano in cui è immerso l'esistente si perde la ricerca dell'irrazionale bellezza e l'imminente futuro. Limpidamente appare ancora più grigio e desolante, asettico e sterile, calcolabile e misurabile quanto putrido e maleodorante. La società civile è lo specchio di questo assurdo luogo dove mi trovo costretto, una galera dalle invalicabili mura e invisibili galere. Il progresso produttore di rifiuti e imbecillità è una grande discarica. Tutto imprigionato, tutto avvelenato, sanguina la terra, zampilla e pergolato, impazziscono le cellule, oppressione, sfruttamento e morte. Di fronte a questo stato di cose, l'indifferenza e la rassegnazione meritano il giusto rispetto. Mi piace pensare che in ogni tempo e in ogni luogo gli oppressori sempre troveranno fratelli e sorelle fieri e resistenti. Occorre ribellarsi e farlo con passione, portando nelle strade le molteplici tensioni dell'agire, collettivamente e individualmente, non riducendo il tutto a sterile analisi politica o masturbazioni cerebrali su giostre assembleari che in alcuni casi inibiscono la individualità, ma ognuno con i propri dubbi e convinzioni, armato della propria volontà. Considerando sempre fondamentale il libero incontro e confronto in liberi spazi, nutro personalmente diverse perplessità riguardo a mire progettuali e spettacolare propaganda, in quanto, pur riconoscendone un potenziale, risultano concetti propri della società delle apparenze, fondata sul nullo sconfinato in questo tempo di sovrainformazione dove la centralizzazione della volontà comunicativa o un suo eccesso rischia di confondere e compromettere nel movimento in cui prevale sulle altre coscienze, degenerando in esaltazione fino a se stessa. Non trovo in nessun dove la ricetta della totale libertà, tantomeno nelle mie tasche, e non credo in nessuna società a venire, sia pure liberata, priva di ogni ingiustizia. La mia visione è intimamente individualista, funambolica, esistenziale. Certo, teoria e pratica in qualsivoglia contesto sono e sempre saranno imprescindibili. Convinto che ogni individuo, mosso esclusivamente dalle proprie percezioni e dalla volontà passione, possa trovare la propria libertà nell'autodeterminarsi. Da prigioniero non smetto di sognare né di immaginare un mondo libero dalla violenza autoritaria e dai binomi oppressori sfruttati sfruttatori. Libero da freni morali e sociali regolatori inibitori di appetiti e di limitatori di orizzonti, un mondo libero da ogni gabbia, vergogna dell'umanità. Un mondo dove l'umana arroganza venga messa da parte per una simbiotica ed empatica consistenza con i viventi tutti nel rispetto dei naturali equilibri e dove la ricerca della libertà individuale sia l'unico percorso da tracciare per una reale e collettiva autodeterminazione. La civiltà industriale, scientifica, tecnologica, dietro le sue tante maschere c'era il suo aberrante volto genocida. Ecocida, inventano cure per malattie inventate, in questo sistema di dominio c'è ben poco di naturale rispetto a ciò che è funzionale, e sabotare l'esistente diviene necessario. Le lotte di liberazione sono i diversi sentieri confluenti in un'unica lotta. Nello stomaco brucia il fuoco di un sentimento caloroso, nella combustiva mobilità di questo tempo che corre ad alta velocità, le maglie della repressione e oppressione si fanno inesorabilmente sempre più fitte, ma la loro arma, la loro cura è soltanto la paura. Sequestrati i miei occhi e il mio corpo prigioniere, oltre a queste infami mura di orizzonti, ribelli e indomito lo spirito, sempre integro nel pensiero. Cielo pubbleo e mare in burrasca, soffia un vento di tempesta. Trema la terra gridando vendetta, resistenze ancestrali in lontananza. Per amore della vita, per l'anarchia, nessuna pretesa, nessuna attesa. Con fanciullesca passione ed anarchica tenacia, un abbraccio, Adriano. Per scrivere ad Adriano Antonacci invece l'indirizzo è Casa Circondariale C.C. via Arginone 327 44122 Ferrara. E questo era il lungo testo di Adriano. Che Adriano non ci può servire Adriano, io gli vorrei dire scrivi un po' spesso, ce n'hai di cose da dire, non buttare tutto in una lettera chilometrica. Io mi lamento già dei greci, poi ci metti pure tu che sei italiano a fare queste cose. Scrivi, perché poi a finire che tu esci e non riesco nemmeno a dire ciao, perché ho perso la voce a leggere le tue lettere via radio. Sto scherzando tanto, Adriano non lo può sentire, qualcuno glielo può riportare con quella lingua malefica, però vabbè, glielo scriverò io di pugno mio ad Adriano nel caso. Queste cose giusto per sdrammatizzare. Allora, questa era la penultima, non proprio la penultima notizia di controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano dei Synodic, il brano è Insurgence, e poi dopo si torna qui con le ultime due brevi notizie di controinformazione della giornata. E questo non ero io, non parlo così bene l'inglese, sono una cagna in inglese. Erano Cyanotic con il brano Insurgence. Ora passiamo alle ultime due notizie di controinformazione della giornata. Dopo la lunghissima lettera di Adriano, Adriamort C2, te lo dico in romano così mi capisci. Scherzo, ovviamente, bisogna sdrammatizzare, non bisogna costruire gli altari ai compagni detenuti. Bisogna anche prenderli in giro, giocarci, cioè, nel senso, rapporti sociali normali, senza nessuna riverenza, perché il compagno o la compagna è in galera. Allora, dicevo, le ultime due notizie di controinformazione, una arriva dalla Spagna e un'altra dalla Grecia, sono brevi. Una dalla Spagna la prendiamo da, cioè, quella dalla Spagna si è messa una prefazione, perché la notizia l'abbiamo appresa dalla stampa borghese spagnola. Aspettiamo però, la notizia viene messa, però si aspetta sempre la conferma dei compagni spagnoli, per farci capire qualcosa in più riguardo alla compagna anarchica Tamara Hernández, che nel 2009 si presentò volontariamente al carcere dopo essere stata accusata per l'invio di un pacco bomba ad Albert Battle, direttore dei servizi penitenziari, come gesto di solidarietà allo sciopero della fame di Amadeo Casillas. Il pacco bomba fu disinnescato perché ci fu una telefonata che preannunciava l'arrivo dello stesso pacco. Tamara rimase per 4 mesi in carcere e si assunse la responsabilità del fatto. Nel 2011 fu condannata ad 8 anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio, ma rimase libera in attesa di sentenza. Il 28 febbraio 2014 il Tribunale Provinciale di Barcellona ha deciso di dare l'indulto a Tamara, commutando la sentenza da 8 in 2 anni, cosa che gli evita che la sentenza venga completata in carcere. Allora, questa è una notizia che è del 28 febbraio 2014, quindi mi sarei aspettato che su qualche sito, qualche blog in lingua spagnola, ma specialmente quella della penisola iberica, avessero detto un qualcosa, o almeno speriamo che ce lo fanno sapere a breve. Invece l'altra notizia la prendiamo con due righe prese dal sito dei compagni di Act for Freedom Now, questo è riguardante il processo riguardante la rivolta del 12 febbraio 2012, che è stato rinviato al 2 maggio 2014. Solidarietà a Vangelis Kailoglou, con il greco io sono sempre una cima, e gli altri 3 combattenti perseguitati nello stesso caso, i compagni del progetto anarchico di traduzione Act for Freedom Now, che saluto e abbraccio calorosamente. Purtroppo vengono svegliati durante la notte. Vabbè, lasciamo perdere. Io faccio i danni e qualche compagno viene svegliato nella notte. Vabbè, va bene. Poi però hanno svegliato anche me durante la notte per avvisarvi di questa cosa. Quindi c'è qualcuno che di notte si piace a fare, gli brucia il culo. Allora, di notte uno si mette a letto e invece di farsi bruciare il culo si passa una bella pomatina after cesso si passa una bella pomatina, si fa un bidet, una bella pomatina, e si continua ad avere bruciori di culo la mattina dopo, se ne parla la mattina dopo, no? Svegliando le persone alle 2 di notte per delle cazzate. Vabbè, basta, finiamola qui. Do l'appuntamento prossimo per la diretta d'azione, che è quella di lunedì, quanti ne abbiamo? 7 aprile. Lunedì 7 aprile, diretta d'azione, che oltre alla controinformazione musica ci sarà la lettura di I Sabotatori di Edward Abbey, che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Quindi, per chi segue le letture su radiazione, appuntamento è per lunedì prossimo, stessa spiaggia, stesso mare, ore 17, radiazione. Ricordiamo anche gli indirizzi utili, la mail radiazione@bcc.org, dove invece di telefonare per l'appunto scrivete a radiazione, lamentatevi su radiazione per qualcosa che non vi torna bene. Non faccio il medico, quindi non posso darvi tanti rimedi a bruciore di culo. So solo l'imodium per una pomata chimica, quindi se trovate un modo naturale è meglio ancora. La mail di radiazione è radiazione@bcc.org, dove potete mandare qualsiasi notizia di controinformazione che volete che appaia sul sito di radiazione, dove potete mandare materiale che volete vedere pubblicato nella pagina download e scaricare gratuitamente. Si è contenti, ma purtroppo sempre in pochi, pochissimi lo fanno. Tutti gli altri mettono in vendita le idee o la propria musica, qualcosa invece nella pagina dei download è arrivato e si è postato. Dove potete sul sito di radiazione potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente rispetto alla radio, differentemente dalla radio che va in onda due volte a settimana, lunedì e venerdì alle 17, dove potete ascoltare la diretta d'azione attraverso il lettore flash o attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta in home page, dove potete riascoltarvi le vecchie dirette d'azione, ma quante volte le devo dire queste cose, dove potete leggere sulla, in alto a sinistra c'è Radiazione Croazia, ci cliccate sopra e vi leggete. Per chi capisce il croato, il serbo-croato, potete leggere il sito di radiazione in lingua serbo-croata. Non è la stessa cosa, non trovate proprio tutte le stesse cose, trovate notizie sempre sullo stesso genere, però non è che è il copia e incolla di radiazione in italiano. Sono due cose diverse, due persone diverse che portano avanti due siti che si chiamano Radiazione, non vi dico come si può pronunciare in croato, al limite lo dirà la compagna quando tornerà a fare le dirette con noi. Allora, per oggi è tutto, le cazzate mie le ho sparate, gli indirizzi utili le ho dette, le notizie si sono lette, vi lascio con un brano dei The Sister of Mercy, Body Electric, e l'appuntamento è per lunedì prossimo, e chi si offende è un fetente. We'll be right back. Radio azione. Frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio azione in diretta. Radio azione. Radio azione.